col treno del sole. Tu speravi in un mondo migliore, ma è diversa la dura realtà. Hai lasciato la banca e il badile, ma ora in fabbrica niente è cambiato. Da padrone sei ancora sfruttato e non vinci la tua povertà. Compagno emigrato, compagno operaio, la lotta continua per la libertà. Non è giusto che ti abbiano costretto a lasciare famiglia e paese, a lasciare i tuoi figli e il tuo tetto, a forzare la tua volontà. Ora sei di una fabbrica schiavo e di notte in un lager rinchiuso. Non è giusto che tu sia un escluso, che per te non ci sia parità. O compagno emigrato, compagno operaio, la lotta continua per la libertà. La battaglia è difficile e dura, vincerai se saprai ritrovare nell'autunno la forte unità. Sputa sopra le false promesse, le elemosine di compromessi, porta avanti la lotta di classe, fianco a fianco ai compagni del nord. Compagno emigrato, compagno operaio, la lotta continua per la libertà. Lotterai per più giusti contratti, per avere più giusti salari, per ridurre pericoli orari, per combattere le iniquità. C'è bisogno di te nelle piazze, per sconfiggere la repressione, per dettare al governo e padrone le tue regole di civiltà. O compagno emigrato, compagno operaio, la lotta continua per la libertà. Che giorno per giorno sei sfruttato al di là del confine, anche tu vincerai alla fine contro chi una coscienza non ha. Stagionale che ancora non puoi ricongiungerti con i tuoi cari, ai razzisti non cedere mai, lotta contro la bestialità. O compagno emigrato, compagno operaio, la lotta continua per la libertà. Coi compagni di ogni nazione, fianco a fianco tu devi lottare. Dai ricatti non farti ingannare e respingi soprusi e viltà. Anche a Wolfsburg, Ginevra o Zurigo, contro i crimini del padronato, l'avanzata del proletariato, le catene strappare saprà.